falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Nel mondo della musica ci sono varie possibilità di lavoro, e c'è quello che sa cantare e allora fa il cantante, c'è quello che sa comporre, scrivere, c'è quello che sa suonare e c'è il manager che sa come produrre un artista. Si possono trovare varie collocazioni e poi ci sono personaggi particolari e per esempio ci può essere chi, partendo da un negozio di vestiti stravaganti, può partecipare a un movimento giovanile che sconvolge un'intera nazione e fare diventare un movimento spontaneo anche una grande macchina da soldi. E questo è ciò che ha fatto il personaggio di cui sto per raccontarvi la storia, signori, Mr. Malcolm McLaren. Parliamo di una persona che ha una vita intera costellata da colpi di genio, da colpi d'ala, di quelli che fanno volare in alto. Una persona che ha fortemente influenzato la musica della Gran Bretagna e in generale di tutto il mondo. Partiamo da Londra in un freddo gennaio del 1946. È qui che Malcolm McLaren nasce e la sua non è proprio un'infanzia felice, perché a soli 2 anni il padre abbandona la famiglia e Malcolm viene praticamente allevato dalla nonna materna. La madre si risposa e lui, ancora giovanissimo, non andando d'accordo con la sua nuova famiglia, molla tutto e se ne va fuori di casa, cosa che gli inglesi fanno con più consuetudine rispetto a noi bamboccioni italiani. Fa qualche lavoretto, si iscrive a una scuola d'arte, poi a un'altra, poi un'altra ancora, e alla fine rinuncia anche alla carriera scolastica. Ho fatto un sacco di lavori, ho fatto anche l'assaggiatore di vini, ma io ho sempre avuto uno spirito creativo e volevo fare un sacco di soldi mettendo a frutto questa mia creatività. Malcolm McLaren vive a modo suo la rivoluzione studentesca del 68. Vorrebbe andare a Parigi per partecipare alle manifestazioni del maggio francese, ma poi rinuncia e partecipa solo a qualche manifestazione in patria. Si interessa di situazionismo, che è una corrente politico-culturale che mira a cambiare la società con azioni assurde e provocatorie. Insomma, il ragazzo si sta formando, vive con interesse il fermento culturale che attraversa l'Europa e tutto ciò che vede in questo periodo sarà per lui una fonte di ispirazione per tutta la vita. La vita è fatta di incontri, così accade che Malcolm McLaren conosca una donna con la quale si accorge di avere molti punti in comune. Lei disegna abiti, ha idee rivoluzionarie nel modo di accoppiare colori e tessuti. E lo si capisce dai capi che disegna lei stessa. Lei si chiama Vivienne Westwood e nel 1971 lascia il marito per iniziare una relazione con McLaren. È una relazione che non si limita all'amore, ma si sviluppa in un'attività commerciale che i due decidono di intraprendere in comune. Aprono infatti al 430 di Kings Road un negozio di abbigliamento, una boutique che chiamano Let It Rock. Agli inizi degli anni 70 feci un viaggio negli Stati Uniti. Dovevo trovare nuove idee per la boutique di Londra e nello stesso tempo volevo vendere alcune delle nostre creazioni. Casualmente incontrai i componenti dei New York Dolls. Erano un passo dal loro scioglimento. Avevano bisogno di qualche idea nuova. Il gruppo dei New York Dolls è in qualche modo il padre di moltissimi musicisti. Intanto si esibiscono vestiti da donna agli inizi degli anni 70 negli Stati Uniti. Si parla di glam rock, in realtà il glam rock era una musica molto rock, ma in qualche modo anche molto influenzata da un'immagine forte, vistosa, luccicante. Quindi in qualche modo i New York Dolls erano glam, come lo erano i T-Rex, come lo erano David Bowie e Iggy Pop, ognuno a suo modo, però i New World Dolls sono stati veramente gli inventori anche di un genere musicale molto rock, molto scarno e senza orpelli, senza grandi assoli. Tra l'altro i New York Dolls e soprattutto Johnny Thunders furono quelli che portarono l'eroina dagli Stati Uniti all'Inghilterra, cambiando la storia di molti punk, tra cui Sid Vicious. Ma torniamo al glam. Il glam è la musica di riferimento di Malcolm McLaren. Malcolm McLaren è negli Stati Uniti e cerca di produrre i New York Dolls, ma i New York Dolls ormai sono alle prese con i loro problemi. David Johansen, il cantante, diventerà Baxter poi in Dexter e farà una carriera solista, mentre i due Jerry Nolan e Johnny Thunders, alle prese con l'eroina, con il loro nuovo gruppo, non ne vogliono più sapere dei New York Dolls. Quindi la prima operazione è una specie di fallimento, ma Malcolm, che è un buon affarista, intuisce che i tempi stanno cambiando e intuisce anche che è il momento di fare fruttare le sue idee e quelle di un movimento intero. Io non ho mai fatto nulla nella vita che non fosse conveniente dal punto di vista economico. L'unica cosa che mi importava di qualsiasi progetto io abbia intrapreso era di far sì che rendesse una montagna di soldi. Il negozio che Malcolm condivide a Londra con Vivienne Westwood inizialmente è frequentato, diciamo, dai Teddy Boys, quindi da una parte rockabilly del rock inglese, quindi diciamo quelli con i capelli a banana, quelli che si rifanno alla musica degli anni 50. Però Londra è una città in forte fermento culturale e i ragazzi hanno bisogno di reagire a quella che trovano un'ingiustizia da parte del mondo adulto, un'ingiustizia che si riversa nel thatcheriano mondo del lavoro che stanno respirando. C'è voglia di provocazione. Così il negozio di Malcolm McLaren cambia nome. In King's Road campeggia una grande scritta con una parola che non era mai stata usata prima: sex. Ovviamente all'interno del negozio cambiano anche le linee di vestiti e così dai blazer blu dei Teddy Boys si passa a magliette stracciate e ad altri capi in cui, diciamo, uno stile sadomaso si affianca a uno stile trash, preso proprio trash da immondizia. Il negozio andava a gonfie vele. Un sacco di ragazzi venivano da noi a comprare magliette strappate e giacche con le borchie. Io e Vivienne lavoravamo tantissimo. Il negozio un po' alla volta è diventato un punto di ritrovo dei ragazzi che cominciavano ad amare il punk. E tra questi ragazzi arrivarono anche Paul e Steve. Tra i ragazzi che iniziano a frequentare il negozio ce ne sono due particolari. Uno si chiama Paul Cook e l'altro Steve Jones. Uno suona la batteria e uno suona la chitarra. Hanno appena formato una cover band, ma stanno veramente cercando una loro strada e un modo per far esplodere la loro rabbia. Il negozio per loro è quindi più che un negozio in cui comprare dei vestiti, anche perché di vestiti ne comprano pochi perché hanno pochi soldi, ma di incontri ne fanno tanti. Il falco e il gabbiano. Sex, il negozio al 430 di King's Road, il negozio di McLaren e di Vivienne Westwood, diventa un punto di riferimento per i giovani della working class londinese che trovano nello stile un po' fetish e nei giubbotti neri, nei vestiti presi dai sacchi dell'immondizia, qualcosa che in qualche modo sappia identificare il loro disagio. Io non avevo la minima intenzione di diventare un produttore discografico. Io volevo solo portare avanti il mio negozio di abbigliamento. I ragazzi indossano le magliette tagliate da Malcolm, cominciano ad arrivare i capelli di altri colori. Se noi giovani non contiamo nulla, quantomeno vi obblighiamo a scandalizzarvi al nostro passaggio. Cambiano anche le droghe, non ci sono più le droghe un po' fricchettone e lisergiche degli hippie di fine anni 60. Qui siamo a droghe più veloci, lo speed, anfetamine e colla da fiutare. Manca però ancora qualcosa che dia la consapevolezza che sta nascendo un movimento ben preciso, il British Punk. Il punk fu solo una moda che divenne un'opportunità di marketing per molte persone. Oggi è bello vedere i punk e come sono vestiti, ma se andiamo a guardare indietro nel tempo, ci rendiamo conto che per i ragazzi era solo una scusa per andare in giro e perdere tempo. Beh, naturalmente non sono d'accordo su una parola di quello che ha detto Vivienne Westwood. Il punk era molto di più, era un grande movimento spontaneo che generò molto, però dal suo punto di vista è chiaramente un'operazione commerciale, e in questo senso Malcolm McLaren ne è il suo principale regista. Intanto Malcolm ha iniziato a occuparsi della cover band di Steve Jones, che in quel momento si chiama ancora Strand. Vi ricordate Steve Jones, il ragazzino che insieme a Paul Cook andava a frequentare il negozio? E lui diventa un manager a tutti gli effetti. Non volevo essere il loro manager, volevo semplicemente evitare che Steve Jones rubasse nel mio negozio. Steve Jones thieving in the store. Al gruppo iniziale si uniscono Glenn Matlock, un bassista, forse il più musicista di tutti, e un ragazzo che si chiama John Lydon, in realtà verrà conosciuto come Johnny Rotten. Rotten vuol dire marcio, e questo nome deriva anche dalla sua dentatura poco curata, ma comunque da un atteggiamento di vita. Steve Jones lo nota dentro al negozio, ha i capelli verdi, ha una maglietta con scritto "Io odio i Pink Floyd", insomma ci sono tutti gli ingredienti per un perfetto punk. E così Johnny Rotten fa il primo provino e canta in una maniera sicuramente più lontana possibile da qualsiasi tipo di tecnicismo, cioè non è bravo a cantare, ma ha una voce perfettamente personale, è una voce che diventa un marchio di fabbrica, e Malcolm McLaren può così iniziare il suo lavoro. Ero troppo matto per fare il manager, sarei stato un perfetto anti-manager. Il mio commento poteva essere soltanto uno: create il caos. I quattro iniziano a provare, cambiano posto più volte, ma c'è soprattutto un problema: bisogna trovare loro un nome. E il nome scelto ha uno stretto collegamento con il negozio di Kings Road, perché i ragazzi si chiameranno d'ora in poi Sex Pistols. Il gruppo inizia suonando le canzoni degli Who, dei Kings. Le cose non funzionano perfettamente dal punto di vista tecnico, però più suonavano e più si creava qualcosa di spettacolare, qualcosa di nuovo. Non facevano che migliorare, e questo era evidente, ma a me non importava proprio niente. Io ero solo interessato ai soldi, e quindi bisognava trovare un modo per far fruttare il gruppo. Il gruppo comincia a lavorare sulle proprie canzoni, e il motore è Glenn Matlock, che è l'unico musicista in grado di comporre in quel momento. Si studiano accordi, si mettono assieme parole, poi Johnny Rotten comincia a scrivere qualcosa e nasce la prima canzone ufficiale dei Sex Pistols, Pretty Vacant. Cambia radicalmente l'atteggiamento del concerto, perché il pubblico diventa protagonista, intanto perché le prime band punk cominciano a nascere e in qualche modo chi suona poi scende ad ascoltare chi sta suonando, e poi perché i concerti e il pubblico sono un concentrato di rabbia e violenza liberatoria. I never traveled to those parts. Non ho mai messo piede in uno di quei posti. Erano locali frequentati da operai, da tifosi ubriachi. Io non volevo mischiarmi a quella gente. E in effetti anch'io nei miei primi viaggi a Londra ricordo questo, ricordo la rabbia e la consapevolezza che stava nascendo qualcosa di completamente diverso. Poi i concerti ho cominciato anche a farli e anche a incontrare e suonare con delle band inglesi, ricordo per esempio Adam and the Ants, ricordo gli XTC e ricordo i più devastati di tutti che erano gli Heartbreakers, che in una fredda serata vicino a Santià non riuscirono neanche a salire sul palco. Stiamo ripercorrendo un periodo particolarissimo della storia della musica britannica e anche della mia storia personale. Siamo alla boutique di King's Road, dalla quale Malcolm McLaren e Vivienne Westwood hanno preso il volo, e Malcolm McLaren si trova a gestire una band che farà parlare di sé in tutto il mondo. La band si chiama Sex Pistols. Malcolm McLaren comincia a fremere perché, come ha ripetuto molte volte, lui fa tutto per denaro e vuole guadagnare, e guadagnare molto con i Sex Pistols. Sentite cosa dice in questo film, che è la grande truffa del rock and roll, in cui interpreta se stesso alle prese con la ascesa e la caduta dei Sex Pistols. Trovati un avvocato che non si interessi di musica ma solo di far soldi. È il tuo punto di forza per ottenere i cachet più alti e per dimostrare alle case discografiche l'enorme potenziale di un gruppo che non sa suonare. Poi devi far litigare le case discografiche per ottenere l'esclusiva. Ma Malcolm McLaren è anche un uomo di cultura e memore delle frequentazioni del fenomeno del situazionismo e sa cosa vuol dire potere provocare reazioni. È convinto che deve accadere qualcosa di veramente disdicevole e offensivo per far sì che il nome dei Sex Pistols vada sulla bocca di tutti, e così arriva la grande occasione. Siamo nel 76, i Sex Pistols hanno appena firmato un contratto con la EMI, hanno pubblicato il loro primo singolo, Anarchy in the UK. Sono a 50.000 copie, quindi sono, come dire, sulla rampa di lancio, e così vengono invitati a Today, un programma della Thames Television. È un emittente regionale che trasmette nell'area di Londra. Il conduttore si chiama Bill Grundy e quei pochi secondi di dialogo passeranno alla storia. Ve li facciamo sentire con l'audio originale, perché anche i nostri doppiatori avrebbero avuto dei seri problemi nel pronunciare la quantità di parolacce che seguiranno, e tra l'altro nello slang inglese dei Pistols. The new craze, they tell me. They're heroes, not the nice clean Rolling Stones. You see, they're as drunk as I am. They are clean by comparison. They're a group called the Sex Pistols. And I'm surrounded now by all of them. You dirty son. You dirty old man. Well, keep going, Chief, keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. The other rocker, Abel, and I'm saying nothing else about him, will be back tomorrow. I'll be seeing you soon. I hope I'm not seeing you again. From me, though, good night. Riassumendo la scena, l'intervista si interrompe quasi subito perché i Pistols cominciano a apostrofare Grundy soprattutto sulle sue abitudini sessuali, dicendo le cose che tutti dicevano ma nessuno diceva, ma con parole veramente di una volgarità che è uno schiaffo in faccia a tutta l'Inghilterra puritana. La conseguenza di questo gesto provoca l'annullamento di molte date del tour e le prime pagine di tutti i giornali, ma soprattutto l'annullamento del contratto della EMI e le proteste di molti artisti inglesi della generazione immediatamente precedente. Right. Now. il primo successo di Malcolm McLaren, perché i Sex Pistols diventano il gruppo del momento e la EMI, la EMI che loro citano in una canzone, non può più permettersi di giustificare questo comportamento all'interno della sua scuderia. Ci sono addirittura artisti della EMI che minacciano di andarsene se i Sex Pistols rimanessero all'interno della casa discografica. Così il contratto viene risolto con 40.000 sterline, una bella liquidazione per un solo singolo. Questo è l'inizio della glorificazione dei Sex Pistols. Nel frattempo però Glenn Matlock, che è il musicista della band, è più occupato a fare musica e quindi non è in qualche modo affine agli spregiudicati piani di Malcolm McLaren, che lo sostituisce con un giovanotto molto meno musicista ma molto più adatto alla sua politica, alla politica dell'immagine e degli scandali. I think that Glenn leaving... Quando Glenn se n'è andato ha portato via quella sinergia meravigliosa e non sono mai più riusciti a ritrovarla. Really, seriously recover from it. Così Malcolm McLaren si libera dello scomodo Glenn Matlock e prende un ragazzo che frequentava la sua boutique di Kings Road, John Simon Ritchie, che viene ribattezzato probabilmente proprio da Malcolm McLaren come Sid Vicious. Gli amplificatori devono sfondare le orecchie. A che serve tutta questa stampa se non arriva la polizia? Dove te ne vai, Sidney? Oh, c'è la nostra mamma, buongiorno. Senti, mamma, ho bisogno di soldi. Senti, Sidney, io sono il vostro agente e penso a tutto quello che vi serve. Pappa, bomba, pannolini. Allora, che cazzo ti servono i soldi? Ma non so, comprare della roba per le nostre casucce. Oh, che tipo di roba vorresti comprare? Questi segni sul braccio, che cosa sono? Zanzaroni. Marco, lascialo stare, smetti. Non spaccarmi le palle. Questo porco è un uomo sadico e non ti dà un soldo. Beh, Sid Vicious non ha ancora 20 anni e non sa bene cosa fare della sua vita. Ha suonato per un solo concerto con un gruppo punk, Siouxsie and the Banshees, proprio all'inizio. È totalmente devastato dall'uso di droghe e di eroina, perché nel frattempo è arrivata l'eroina a Londra, portata dai nostri amici Heartbreakers di cui abbiamo parlato prima. Certo, non è un grande bassista, probabilmente non ha ancora imbracciato un basso, però riescono a fargli imparare gli accordi base e addirittura si dice che dietro alle quinte ci fosse un altro bassista che suonava nei primi concerti. Non so se questo sia vero, ma di certo nei dischi dei Sex Pistols, anzi nell'unico disco dei Sex Pistols, il basso lo suona Steve Jones. Intanto arriva un nuovo contratto, questa volta con la AM Records, e i Sex Pistols vanno a firmarlo questo contratto e in un pomeriggio distruggono letteralmente la casa discografica, e si dice che Sid Vicious abbia addirittura vomitato sulla scrivania del direttore generale. Risultato? Contratto risolto e altri soldi presi dai Sex Pistols senza neanche avere pubblicato una nota. Ho sempre pensato, se un album non fosse mai stato fatto? Ma il gruppo voleva fortemente fare un album. Per loro era un desiderio legittimo che avrebbe legittimato loro stessi. Sarebbero stati un gruppo vero. E per la prima volta ho agito come un manager responsabile e ho firmato con la Virgin. E arriva l'appuntamento con la storia, il 1977, l'anno del punk, ma anche l'anno del giubileo della regina Elisabetta, 25 anni di regno. Londra è piena di effigi della regina, viene venduta dappertutto, è il manifesto inglese. Bene, i Sex Pistols scrivono God Save the Queen con una copertina con una regina con una spilla da balia infilata nella guancia. 60.000 copie appena il disco esce e la BBC che si rifiuta naturalmente di trasmettere la canzone. Una canzone con quel titolo non sarebbe mai stata trasmessa. Quale avvenimento potevamo organizzare? Se non potevano farsi sentire né sulla terra né nell'etere, li avrei messi su una maledetta barca al seguito della flotta reale. And let's follow the Queen's flotilla. Naturalmente Questo è un disco impossibile da promuovere perché la TV e la radio non ne vogliono sapere dei Sex Pistols. Loro organizzano un concerto che rimarrà storico su una barca sul Tamigi. Ovviamente vengono immediatamente arrestati e questa è la promozione perfetta, la promozione alla Malcolm McLaren. Intanto è quasi pronto l'album, bisogna scegliere un titolo e il titolo è una frase tipica della classe operaia, e Never Mind the Bollocks, che sarebbe non dire stupidaggini. In realtà non è non dire stupidaggini, è molto peggio, non dire cazzate. E il disco esce e scala le classifiche. Pensate che le radio non lo passano e il titolo non compare neanche. Al posto del numero uno c'è uno spazio bianco. Era chiaro che saremmo stati processati. Intendo per la provocazione del titolo. Provocation of the title. Il disco rimane una pietra miliare della storia della musica e in quel momento è accompagnato da una serie di grandi band punk che faranno la storia della musica anche loro. Citiamo i Clash, citiamo Elvis Costello, Joe Jackson, andiamo in America e parliamo dei Ramones e poi i Police di qua dell'oceano e poi dall'altra parte i Talking Heads. Insomma, il movimento punk diventa un movimento globale e che comincia anche a diversificarsi. Nevermind the Ball rimane comunque l'unico album dei Sex Pistols, perché subito dopo la pubblicazione il rapporto tra Johnny Rotten e Malcolm McLaren diventa insostenibile, forse per questioni di soldi. Intanto Sid Vicious e la sua fidanzata Nancy si è sempre più perso nella droga e poi nella tragedia del omicidio e del suo suicidio, e quindi tutto finisce. Malcolm McLaren ha ancora un colpo d'ala perché porta i Sex Pistols in Brasile e fa fare loro un singolo con Ronald Brigg, che è il rapinatore del treno Glasgow-Londra, quindi un altro colpo alla Malcolm McLaren. Al suo ritorno cerca di produrre un altro artista e per un certo periodo ci riesce, e l'artista è un altro, diciamo, mio amico Adam Ant. Siamo arrivati agli anni 80 e la musica si evolve, subentrano altre mode, al termine punk si sostituisce il termine new wave. Malcolm McLaren non sta certo con le mani in mano, anche perché la new wave in qualche modo è il modo per conciliare il dissenso con l'elettronica e quindi con la discoteca, quindi ci sono altri soldi da fare. Questa volta si mette in gioco direttamente e prende al suo fianco Trevor Horn, uno dei più grandi produttori degli ultimi 50 anni, quello per intenderci di Video Killed Radio Stars, e inizia un certo tipo di carriera solista e lancia in Inghilterra l'hip hop, esce con un album che si chiama Duck Rock, da cui viene tratto un singolo molto famoso che ha successo, si chiama Buffalo Girls. Negli anni 80 Malcolm McLaren continua a inseguire nuovi progetti, alcuni musicali e altri cinematografici. Nell'89 lancia un nuovo ballo che si chiama il Voguing, che verrà ripreso anche da Madonna con il suo singolo Vogue, però non riuscirà più a ripetere la magia creata attorno a quel piccolo negozio di indumenti in Kings Road. Il punk ha lasciato lo spazio ad altri generi musicali, la rabbia di una intera generazione viene canalizzata in altri modi. Questo generale completamente fuori di testa, completamente capace di manipolare il sistema, anche se poi alla fine tutto ciò avverrà solo con i Sex Pistols, ci lascia l'8 aprile del 2010. Lascia il ricordo di un uomo che seppe dissentire dal sistema e anche in qualche modo usarlo. Però rimane sempre da considerare in qualche modo uno dei padri canzoni del punk. Abbiamo deciso di raccontarvi una storia al giorno e naturalmente le storie possono essere anche le vostre storie. Se volete darci dei consigli, fatelo. Per esempio scrivendo al falco@radio24.it oppure su Facebook, oppure su Twitter. Insomma, se volete, mi trovate. Ciao a tutti, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.